e 9 minuti. Tic-tac, tutti dormendo. Ebbene, amici degli, svegliatevi bambini. Ora 23, ora, ora. Torre, torre. Gianmaria, buonasera. E chi è? Buonasera, ben grato. Buonasera, buonasera. Un po' più più, sì, eh. Solleva la voce. Pio Pio? Aspetta un attimo, va bene adesso? Ma cosa c'hai in bocca? Che patata, Maria? Sto mangiando la mia orsa. Giovanni, la mia orsa sto mangiando. E male stai uscendo però, non si capisce cosa dici, Non lo so. Non so quanto posso, ma... Non sapevo perché, non lo so, troppo acceso. Allora, adesso bisogna lasciarlo scaldare un pochettino, perché non è chiara la radio, ho capito? Lasciamo scaldare un pochino, ok, non c'è nessuno, no? Torre, in Bacchisio? No, ho fatto un paio di chiamate a Bacchisio, a Torre, non ha risposto nessuno, esattamente ancora sono impegnati, ma senz'altro più tardi entreranno, vai, fra poco entreranno. Io mi stavo guardando la TV ed era acceso l'apparecchio e ho sentito a te. E ok, io mi stavo sistemando qualcosa adesso. Tutto qua, c'era Graziano, poc'anzi, di me, lei non ascolta, ma non sono entrato perché stavo sistemando la cosa, tutto qua. Va bene, giornali, rimangono ancora 2 minuti, vediamo se entrano, così mi finisco di terminare, di farmi questa roba qua. Mi devo scrivere delle commissioni, dovevo segnarmi roba per il muratore, insomma, magari me le posso verificare, là. Sono ascolto, Giovanni, un attimino solo. Io acceso qua, chiama, torni a entrare, ok. D'accordo, sentiamo, ciao. Ciao, ciao. Attenzione, signor Bacchisio! Ciao Marie! Ehi, Ciabatto, buonasera! Ehi, buonasera! Caspita! Dimmi tutto, Antonio, dimmi tutto, cosa c'è? Ma di lato, sì! No, io più calmo di me, non ve ne altro! Allora, tranquillo, meglio così! C'era Marino, 5 minuti fa, ha chiuso, dice che stava facendo cosa. Oh, e ce l'ha fatto un veleno girubiazzale. Ehi, sta sempre a volte che taglia i cespugli, che sasso, a chissura, va bene, la vera luce, girubiazzale, però lo dico io. Non si ferma mai, no? Sette travaglietti, voi sai, insomma, un gatto. Graziano, è te, giura? Ma è TMR, era. Era il TMR, però io pure, ma mi sono cassettato un poco. Esiste la cosa, Marino si è combattato dai nomi. Certo, sempre in TMR. Non ha meglio lì c'è la radio. Ha detto che 23 dice che non li piazza Ezio. Dai che 23 bisogna rifacciarlo. Basta entrare un 22. E allora, si ha detto che non mi piace a me 23. E non prevedo quei 23 sempre. Entrava sempre dietro il 23. Certo, e non li piazzi. Tu pure calato, vada cazzo se la posso in capo Luca questo telefonino che sa cosa ragazza, non fece tre, non ripiace più, ripiace solo BMR, per carità. Ma su cosa, ho telefonino viraggio, non lo so con trattelli io. Pure stasera mi fuori a installare la persona, il trono, la seccia non li voglio, no. Se c'hai abbastanza fatti un campo mattarazzo o altre cose, pure con un telefonino, non saranno. Oh, non è per me, dottor. Io ce l'ho, e non lo sto adoperando, non me ne affitti nulla, penso un poco. Ma si è usata grazie alla parte nostra, specialmente a parte mia. E meglio che sia così. Sì, vabbè. E poi è che lo può trattare, grazie. Ma magari se sono che sto andando verso Olbia, Cagliari e cose, allora sì, che si può trattare e cose. Però a trattarlo in ordine non manda. Vabbè, a chi ha dato? Mi piace. Meglio che lo usi. Ma no, mi piace, non le voglio, no, no. Voleva passare, fa vedere, no, me ne fa vedere a chi non mi interessa a me, queste cose, no? Oh, io. Se viene mentira, no? E per me basta, già, La pizza che hai, insomma. Ah, ma grazie a Rossetti tu, il TMR, non si può, c'è chi ha fatto l'abbonamento. Certo, che anche vi può dire che rimane a giura quando è così, non c'è meno che non rimane a giura anche vi. Alucrivia. Date che non c'è chi risiede all'ufficio 3, lo riproverei subito, avessi non rimpiato l'ufficio 3. Intanto si rivede all'ufficio 3 però, non piace a nessuno, ma intanto bene tutti all'ufficio 3. E infatti, che c'è che detto che non piace a nessuno. E vabbè. Attenzione, signor Bacchisio! Oh, andiamo a gruppare un bocchino, un burbacchio, non mi ha risposto, Ma evidentemente è già parato. Scusa, la CDO. Mi giurai. Buonasera, signor Bacchi. Buonasera, signor Tore. Ma chi ne immagina detto? Non è che c'è del lavorese, ha chiamato due borsi, non mi ha rifugio. Ha chiamato due, mi ha rifugio. Ma innamorati, sì. Ci vogliamo bene. Ah, vi amate, sì. La mia fidanzata, Tore, capito? Davvero? No. Beh, ma chi? Cosa ti racconti stasera? Già lo grido, ma non mangiarlo per troppo umidizzare però, Basta, sta rimane il tuo manzano, grazie, pare che abbia fatto Eva. Che l'ha fatto il solito manzano, pare che abbia fatto Eva, ma non sei uscito in bicicletta ultimo? No, sono andato a fare commissioni, l'ho operato la macchina, e giù con la pratica mola, fa la vista il tuo manzano, anche qui tutta la strada è chiusa, vai, però la giornata era bellissima, bella veramente. Oggi hai pigliato il sole, bacchi allora. È così, infatti. È una bella giornata oggi. Domani è bella Roma stessa, insomma, anche domani fa caldo. Ma poi tu Eva però. Ma noi no che non li fa, Eva, si fa la pace di Olbia, si fa la. Sta per la Roma, insomma, ma bello, mi dava fuoco di pacchi, di chiede, ma sei stato, ma un bambi, era pieno, tutta la lettorania. Cazzo, il mare era bellissimo oggi. Sì, hanno mangiato pochi soguribar oggi. Purtroppo sono sempre impegnato. Mi venere a sera ti devo fare la riera, anche giocando nel bote lo devo accompagnare. Purtroppo sì, devo fare così. Ma Ecco già fatto il bagno. Uiuia, che andiamo via, andiamo. Non ti lasciano in pace, no? Ma c'hanno loro, c'hanno l'autista personale, per cui tu fai e muso, chi è già cagliato, da sempre. Sì, non cagliamo muto, purtroppo devo fare così. Infatti, forse la giornata bisogna andare, così che almeno sono contenti loro, così è Bacchi. Li comanda la campagna Giulia e fatti di tutto senza di niente, vero? Allora bisogna che vattene l'altro, lo fate una passe mia, bravo. Ma con cazzo ti sbagli diversamente, tu non come se lui poveretti, cazzo, povere frugnone, cazzo, già siamo malandati, ma ti fai più male che peggio la paglietta. Lo credo. Purtroppo è così. Hai capito? Che non finna. Dipende di cosa è. Allora danno così a me. Ma se riesci da pigliare, dai più chissà. Bacchi, lasciami in pace, lasciami. Ormai non me la fotti più nulla, tanto. Cazzo, fila voi da Bacchi, io, Tore. Cazzo, io, fai l'affare, cazzo. Almeno lì respiri aria pura. Insomma lì, lascio che riesci a pigliare chi d'altra. E figuriamoci se riesci a pigliare chi sta. Ehi, fai fare a Bacchi, fai fare un pagherò. E allora sì. Bacchi, a te cuffere. Oggi sta vedendo il parecchio una cosa pesante, non vi so di là, non fare di là, non vuole comprare, è un macello, io che la voglio dare, già non li può dare, sta diversa la questione. Purtroppo se l'abbiamo di là, l'abbiamo fatto l'affare con Cassiani. Però, scusate, no, che ne è? Metto a Guggaimo, tranquillo e pacifico. Bravo, bravo. Chi si fredda va in campagna, se vuoi romanizzare il gruppo, questi casi diciati di me, era giusto, tranquillo. Infatti, c'è il Bacchiglio che se ne ha fatto lì. Bacchiglio, perché ormai è due abituati, si ferma, sono guai il paese, per cui tira avanti finché la barca va, vero Bacchi? Siete soprammodulati tutti e due. Poco fa c'era Marino, Bacchi. Ha fatto la chiamata, non risponde, è stato 5 minuti e doveva fare cose, dice rientro più tardi. E vabbè, oggi stiamo fino a manco 10, manco 5, e poi ci arremmo. E faccio manco 4. Ma non ce n'è preoccupazione per questo, Marino, ci vuoi entrare, entra va, se no arrivederci. Marino, è pure del piazzale, sta qui, è pure del piazzale che ha il bruttaggio, taglia di questa cosa. È già una chiesa pure del piazzale, ancora non ha finito. Sì, a chi sta pulizia il piazzale è troppo lunga, mi pare che una chiesa può vendere. No, c'è l'FN mezzo, dai, c'è l'FN mezzo, per cui fa bene che fa così, dai. Un bel piazzale c'ha comunque, bel piazzale veramente, bello grande, per cui... è bello veramente. La strada, sai com'è? Ma è chi mi dice il bollaio, l'ex bollaio, lui ci pensa, mi pare, sono 150 metri e ogni tanto ha già piatti spunti. E se la cazzo è tutto capurisotto, se non va a corsa mi chiedi, cazzo, uno si dice che la macchina roba in un anno se la distruggi, che musica. E infatti ha fatto un bel lavoro, dai, per cui, perlomeno io sono contento che abbia fatto un bel lavoro, dai. È sempre così, è sempre, se non riesce a fare un travaglio come si vede in questa strada, e che brutta veramente, e quando faceva vai nel ferro e peggio ancora, per carità, aiutato, caso mai che non devi pensare a qualsiasi cosa, un tanto per uomini a contarla, dai, non mi fa di tu. Sucio. Quindi di passo è tutto asfaltato, invece se devo arrivare in dedo si fare 30 a rufuso, si fare 30 su burroni, questo lo fare in bicicletta ai ghivino, io non faccio in bicicletta che te l'hai fatto subito la macchina ai ghivi, secondo lo ci ha detto si faccio la macchina a vino carta se te l'hai fatto si fare 30 si fare è brutta veramente, ma non sono riuscitissimo, ma è andati da un bunker per andare a cose da Edio, da Marino, e lì ci sono un bel bunker, puoi immaginare, per carità, tutta buchi, su voce, per carità. Vero, signor Bacchi. Sì, ha fatto proprio la camicetta nuova, da Maria. Shut up. bacchino. Ah, si può mangiare, per esempio, se una macchina, una bicicletta, si trocca in giù, si pigia. Si pigia i rusi. Qual è quella mera che ho visto anch'io? No, già è bella, piccolina, la metti dentro nel bagagliaio e andi. Certo, se è molto bella e non paghi nessun lucro, vedi, con la macchina, posteggi la macchina, apri la bicicletta e giri. Bacchino, sei uscito? Non sei uscito, Bacchino, guarda tutto. Oh, me l'ha presentata fino a una in Indianapoli, sta pieghevole, sto bella, Me l'ha proposta, altro non saranno. Oh, non la guardo nemmeno, perché sono di farsi a tutta. La bicicletta così. È comoda magari perché si è la metti nel bagagliaio e si sta benissimo. È bella veramente, però ti pare che costa un bel... quella io l'ho accettato al mercato, mi pare che costa 200 che cosa? 280 mi pare che costa. Però bacchi. Siamo 3 o 4 ore di autonomia. Ah, quella bicicletta? Quella che è bassa, mi piccola, pieghevole. Quella lì è elettrico. Ma le ruote sono bassi. Ma già cammina, non te la mai da così, cammina. Pedale già cammina. Fai che si vede più bene se dai. Lo so che cammina, lo vedo. Per si taglia il pedale, là. Ma pure che c'è vazio cammina, però cazzo, pensa più la batteria che tutta la bicicletta cazzo, cazzo, meno male già è in magazzino bella zappata, ho comprato il telefono apposta, ho pigliato un raffreddore, chissà che ha tanti vizzati lì. Vabbè, piano piano già riesci a venderla. Se trovo un cliente già la vendo, sì, no. Comunque come ho messo la batteria adesso, me l'ho tolta dal suo posto, l'ho messa sul portabagagli dietro, orizzontalmente, e adesso già ci arrivo. Lo potrei anche usare, la userò, ma no, va, a tempo buono, va per prendere la bicicletta e non la gioco. Allora già lo sai, l'intenzione mia qual è, e per cui vediamo un po' quella tragedia, capito? Vabbè, anche oggi si poteva usare un'oretta vicino, si poteva usare, solo che col vento a faccia mi è freschito, però bacchi. Magari camminando se l'aria era fredda e per cui già che c'è un piede da cruci, ma immagina che cammini così avanti, si mette altro in tutti i luoghi, che cazzo. E non vi ha paura, no? Oggi poi i giornali per torna, ma gli appassano Mattesi, il lato era pronti. Ma radicata a casa mia, la posso usare perlomeno io, la posso usare così. Ma oggi, ripeto, c'è l'aria fresca, ho pensato, perché ero giù in magazzino, ero indeciso a pigliarla, però c'era troppo aria fresca, per cui Gadugamini stare la fredda, e allora non l'ho presa per quello, se ho diretto me la flippato. Le palazze è un po' bello, per cui piano piano, piano piano, quando fa caldo già la tolgo, ma il ferro sarà un po' difficile, ecco. Sì, no, io qualche giorno, che è bella la giornata, la prendo e faccio un paio d'ore di corsa e rientro. Vabbè, ma tu fai strada lunga, io strada lunga così non le faccio, ma male posso fare un direttino che lo lascerò, sì, quindi a Bacchiglio, tata in Pisa si fa su, si fa su lontano, ma non si fa essere tranquilli, Bacchi. Sì, sono di affaura, no? Capivi? Beh, campo minato, beh. Oh, io ho campo minato, beh. Beh, magari di manzano non succede, ma di sera sì. Infatti di sera venne di più. Ma che è? Un ritiro la sera, beh, capito? Ai te, che si, cari di già dovresti, otto, stasera, 8 di là, cazzo, che si, voluto è blindato, che era, hanno bloccato, cazzo, mi pare, l'hanno fatta in franco, domani c'è il coincide, mi raccomando, domani svegliatelo tutto il sole, se non piove. Vai tu! Ci sentiamo Mattia, alle prossime! A domani, se andato tu bene, andiamo bene. Ciao Mari, anche tu stai chiudendo! Anch'io chiudo, dai, vi saluto, anche gli ascoltatori, per cui so. Statevi bene, a domani, se Dio vuole. Prossimamente in serata e ci sentiamo con la buonanotte, ciao Gianmarino, a domani, ok.